però ho anche tanti attestati da parte di persone che dicono vado avanti perché è un lavoro duro, però bisogna portarlo avanti. E a Sud Italia le situazioni di disagio sono moltissime. A Borgo Mezzanone, provincia di Foggia, circa un migliaio di migranti vive nel centro di prima accoglienza governativo. A fianco a questo sorge un insediamento spontaneo, una vera e propria baraccopoli, dove tra rifiuti e degrado vive un altro migliaio di migranti che non hanno più diritto a stare nel centro, o perché la loro domanda di asilo è stata rigettata, o al contrario perché hanno ottenuto lo status di rifugiato, ma non sanno dove andare. E soprattutto sanno che lì per loro c'è lavoro. Giuseppe Di Mola, di Medici Senza Frontiere. Tutti vanno a lavorare nei campi del Foggiano, in agricoltura, in condizioni, diciamo, da un punto di vista di lavorativo, di, possiamo definire tranquillamente, di sfruttamento. Ma la legge sul caporalato ha migliorato la situazione o è cambiato qualcosa? L'impressione è che, nonostante si tratti di una buona legge, nonostante le intenzioni siano molto buone, in realtà da un punto di vista strutturale non sia cambiato granché. Ci sono dei reportage giornalistici che hanno raccontato la situazione non solo nel ghetto, ma anche che si trova a vivere la popolazione italiana della zona, degrado, con una situazione di illegalità un po' più diffusa. Addirittura c'è chi ha chiesto nel paese, fra gli italiani ovviamente, un pullman dedicato soltanto ai bianchi. Allora, qui il problema è più generale, riguarda la gestione delle periferie in Italia. Cioè si assiste alla tendenza, ma non soltanto a Borgo Mezzanone, a Foggia, ma un po' dovunque. Se pensiamo ad esempio alla situazione romana, è assolutamente identica. Cioè si individuano le periferie per concentrare tutte le criticità presenti nella nostra società, per cui appunto i centri di accoglienza per migranti costruiti nelle periferie, piuttosto che gli insediamenti informali che si formano nelle periferie, lì sono tollerati, e invece abbiamo visto a Roma, quando si tratta di insediamenti informali nel centro città, vengono sgomberati, anche con, diciamo, molto per le spicce. La popolazione a Borgo Mezzanone, anche lì c'è una situazione di periferia con servizi molto limitati per tutti, quindi per gli stranieri ma anche per gli italiani. C'è una discarica a Borgo Mezzanone, c'è un inceneritore a Borgo Mezzanone, quindi sì, è chiaro che accumulando tutte queste criticità nelle stesse aree, la possibilità di tensioni sociali aumenta. Parliamo appunto di una borgata di poche migliaia di persone a fronte di una presenza di migranti di più di 2.500 persone, quindi le tensioni sono determinate dall'aver concentrato in quell'area tutta una serie di criticità cui non si riescono a controllare. Il ministro dell'Interno Marco Minniti, intanto, intervenendo ad Aosta alla Scuola della Democrazia pochi giorni fa, ha parlato anche di accoglienza e ha annunciato la chiusura di alcuni grandi centri, un annuncio che era già stato fatto a gennaio. Lavorare per avere una distribuzione diffusa sull'intero territorio nazionale dell'accoglienza, e cioè avere piccoli numeri distribuiti nelle realtà, e superare, anzi è possibile chiudere nel più rapidamente del tempo possibile, i grandi centri di accoglienza. Ma quanti sono i migranti accolti in Italia in questo momento? Il sito del Ministero dell'Interno non ci viene in aiuto. Una volta conteneva questo dato, ma da circa 6 mesi è stato tolto. Lo abbiamo quindi chiesto al sottosegretario all'interno con delega all'immigrazione, Domenico Manzione. Le persone ospitate in Italia sono sopra le 190.000. Quando abbiamo iniziato il percorso, che prevedeva grosso modo qualcosa in meno di 30.000 presenze sul territorio nazionale. Il numero di chi è accolto in Italia è in aumento rispetto agli anni scorsi. Questo perché i tempi di attesa per ottenere lo status di rifugiato oppure il diniego sono ancora lentissimi. Noi speriamo di qui a pochissimo che il Consiglio dei Ministri possa approvare un decreto legislativo correttivo delle procedure che verosimilmente consentiranno soprattutto alle commissioni, la parte che interessa di più in questo momento, soprattutto alle commissioni, di avere una procedura più agile, però allo stesso tempo anche più garantita, perché vorremmo sostituire il criterio della rappresentatività a quello della competenza e della specificità della funzione. A chi non è consentito restare in Italia viene dato un foglio di via, ma molto spesso queste persone un minuto dopo spariscono. Bisognerebbe rimpatriarle ma di novità in questo senso ce ne sono poche. In questo momento accordi dell'ultima ora onestamente non ci sono. C'è però un continuo lavorare in quella direzione e c'è anche un impegno europeo che si dovrà tradurre poi, io spero, in fatti. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.